X24. La storia. Vorrei trasferirmi in campagna un giorno, stare lì con mia figlia, con i miei alberi, la mia frutta e vivere. È l'ultima intervista di Romy Schneider, una delle attrici più amate e affascinanti del grande schermo. L'indimenticabile Sissi, dalla bellezza malinconica, che in 25 anni di carriera ha girato quasi 60 film, diretta da registi come Luchino Visconti, Joseph Losey, Dino Risi. Tra i suoi tanti titoli non si possono dimenticare Ludwig, La piscina, La califfa, La morte in diretta e Guardato a vista. La serie della principessa Sissi ne ha fatto una star, ma sono stati questi film e tanti altri a consacrarlo come un'attrice intensa e suggestiva, mai banale, diversa come erano diverse le pellicole che sceglieva. 6 settimane dopo questa intervista, Romy Schneider si prepara a passare un weekend nella sua casa di Parigi e venerdì 28 maggio dell'82. Quella sera Romy mi chiamò alle 8 e mi disse: Gérard, come stai? È stata adorabile e abbiamo parlato per più di un'ora. In quel momento, mentre parlavamo, era felice. La mattina dopo Romy Schneider viene trovata morta. Romy Schneider è morta stamattina a Parigi. Si è trattato di suicidio o di un incidente causato da barbiturici? Soltanto l'autopsia permetterà di precisarlo. Finisce così a soli 44 anni la vita troppo breve di una donna sensibilissima e di un'attrice straordinaria. Questo dunque è il racconto della Romy Schneider segreta, sconosciuta, a chi l'ha tanto amata sul grande schermo e non solo. Al momento della morte di Romy Schneider, il suo ultimo film, La signora è di passaggio, è ancora nelle sale. L'attrice, che ha soli 43 anni, è una delle dive più amate del grande schermo. Piera De Tassis, critica cinematografica, direttrice della rivista Chuck, presidente della Fondazione Festival del Cinema per Roma. Cosa rende Romy Schneider così amata? La fragilità sicuramente, la grande bellezza, potevo dire che è stata una delle attrici più belle, davvero con gli occhi più belli della storia del cinema, incarnata poi in un personaggio che è diventato un personaggio occulto per un'intera generazione, che era la principessa Sissi, quindi il sogno di tutte le adolescenti. Diciamo che questa mitologia di Romy Schneider che si è unita poi a una delle vite più infelici. Nata a Vienna nel 1938, Romy Schneider proviene da una famiglia di cinema e figlia di due attori di successo. È a soli 15 anni che appare per la prima volta sullo schermo. Dagli esordi, con l'amore di una grande regina, passando per la principessa Sissi, fino a film di grande successo come La piscina, Frau Marlene, Il vecchio fucile, L'importante amare, Il commissario Pelissier e L'amante pura. Romy era un'attrice straordinaria, era in grado di interpretare qualsiasi ruolo, dalle commedie alle parti drammatiche. La magia di Romy Schneider era la sua abilità di calarsi perfettamente nei personaggi che interpretava. Ci metteva così tanta passione che risultava sempre reale. Allo stesso tempo però era raggiante, luminosa e fotogenica. Romy Schneider è una stella in continua ascesa. In soli 5 anni vince 2 premi César, l'equivalente francese dell'Oscar, per le sue interpretazioni in L'importante amare nel 76 e Una donna semplice nel 79. Anche l'amore per i suoi 2 bambini, Sara e David, le regala momenti di serenità. Ascoltiamo come parlano del suo rapporto con i figli le persone che lavoravano con lei, la produttrice Albina Dubois-Rouvray, il suo parrucchiere Jean-Max Guérin. David era un ragazzo molto riservato, fin troppo per la sua età. C'era un legame molto speciale tra madre e figlio. David era l'amore della sua vita. Era tutto per lei. Ma il 5 luglio dell'81 a Saint-Germain-des-Laye, in Francia, mentre è dai nonni per il fine settimana, il figlio David è vittima di un incidente. Cercando di scavalcare il cancello di casa, perde l'equilibrio e rimane infilzato. Romy Schneider si precipita all'ospedale, ma non c'è più nulla da fare. L'attrice di successo non viene risparmiata nemmeno in questo momento dai paparazzi, che riescono a scattare delle foto di David ormai senza vita. Rifiutate da tutti i giornali francesi, le immagini vengono pubblicate dal quotidiano tedesco Das Bild. Dovete sapere di cosa sono capaci i fotografi. Io penso che il pubblico abbia diritto di saperlo. Si sono travestiti da infermieri per fotografare un bambino morto. E un giornale ha scelto di comprare le foto e pubblicarle in prima pagina. Io vorrei solo essere lasciata in pace. Al momento della morte del figlio, Romy Schneider sta preparando il suo prossimo film, La signora è di passaggio. È una pellicola importante per l'attrice. Per la prima volta è un progetto che nasce da lei. Il produttore Raymond Danon racconta l'entusiasmo per quel nuovo lavoro. Romy venne da me e mi disse: c'è un romanzo di Cassel che mi piace molto. Ti va di farne un film insieme? Sì, fu lei che mi propose La signora è di passaggio. Ed è sempre la Schneider a proporre Jacques Ruffiot come regista. Il film è ambientato nel periodo nazista. L'interesse di Romy è dovuto alle sue origini. Romy Schneider, infatti, nasce a Vienna il 23 settembre del 1938 e nel marzo dello stesso anno l'Austria viene annessa alla Germania di Hitler. A Romy non piaceva essere chiamata tedesca. Alcuni la chiamavano anche Krucca. Lo odiava. Voleva che tutti sapessero che era austriaca. La Schneider aveva nel suo comportamento tutti gli aspetti positivi dei tedeschi. Era liberale, anticonformista, di larghe vedute e si prendeva cura delle persone. E tutto questo si ritrova in La signora è di passaggio. Mix 24. La storia. Bentornati a Mix 24 e al racconto della vita della diva Romy Schneider. Dopo la morte del figlio David nel luglio dell'81, l'attrice vorrebbe posticipare di qualche mese le riprese del suo ultimo lavoro, La signora di passaggio. Ma il film è già stato rimandato per volontà dell'attrice e bisogna andare avanti. A fermare la prima volta le riprese del film è un incidente avvenuto alcuni mesi prima in Bretagna, dove la Schneider era andata per un trattamento termale prima dell'inizio delle riprese. L'attrice ha appuntamento con il fotografo Robert Lebeck e il giornalista Michael Jurg della rivista tedesca Stern. Dovevamo iniziare alle 10 o 11 di mattina. Io ero stanco morto, stremato, sicuramente a causa dello champagne e del fumo, ma lei era così. Beveva Chablis di mattina. Era davvero instabile. Aveva continui cambiamenti d'umore. In quel momento della sua vita era tutt'altro che felice. Romy Schneider non è in un momento felice. Il suo primo marito, Harry Mayen, il padre di David, si è suicidato alcuni mesi prima. L'attrice è inoltre alle prese con il divorzio da Daniel Biesini, suo secondo marito, dopo 6 anni di matrimonio. Soffre di depressione e lo ammette. Ascoltiamola. In questo momento riesco a malapena a convivere con me stessa. Stava per compiere 41 anni e questo la spaventava. Nessuno vorrà più fare un film con me, era assurdo. Ma lei non pensava ad altro, sono vecchia, troppo vecchia. Pira de Tassis, l'ultimo film di Romy Schneider, La signora di passaggio, così tormentato, così legato alla sua vita personale, ha aggravato la condizione psicologica già molto fragile di Romy Schneider? Ma sì, il problema è che come tutti raccontano, come raccontano i libri su di lei, Romy Schneider era comunque rovinata, mangiata, distrutta dall'alcol, dall'alcolismo, e quindi non c'era più nessuna, come dire, separazione fra quello che viveva nella realtà e viveva sul set, nello schermo. Quindi era difficile anche da controllare. Quando si arriva a quel livello di autodistruzione, non ci sono, e già l'attore, il mestiere d'attore è comunque sempre un mestiere molto esposto, molto di primo piano. Ma i suoi problemi con l'alcol e poi la depressione derivano anche dalla sua difficoltà di non saper invecchiare? Questo non lo so. Io credo che nessuno sappia mai da che cosa deriva veramente un problema così forte di depressione. Cioè, sicuramente per ogni star, per ogni diva, per ogni donna il problema dell'invecchiamento è un problema feroce, crudele, perché l'invecchiamento si vede e su grande schermo si vede ancora di più. Però io penso che ci sia l'incapacità, soprattutto nel suo caso, di adattarsi proprio alla popolarità. Cioè, c'era una frattura fra l'essere conosciuta e il voler essere sconosciuta, ritirata, invisibile. Poi ne parleremo di questo, infatti, ma anche la sua vita sentimentale complicata non l'ha aiutata, probabilmente. No, certo, non l'ha aiutata, però soprattutto probabilmente la storia molto mediatica con Alain Delon, portata su tutte le riviste, su tutti i giornali, una storia abbastanza di passione, come dire, di contrasto, no? Una tipica storia di amor fuma, anche che poi è diventata un simbolo attraverso un film che tutti, la piscina, insomma, tutti ricordano, che è La piscina, appunto, che in qualche modo è stata la sintesi di quella storia d'amore. Però il problema è che tutti abbiamo storie d'amore che non funzionano. C'è chi non riesce a gestirle e chi riesce a gestirle. Credo che il problema centrale di Romy Schneider fosse la difficoltà a gestire una popolarità immensa, perché la sua fu davvero una popolarità immensa, è con Sissi. No, perché adesso è un po' lontano Sissi nella memoria, ma era come le grandi serie televisive oggi, cioè Sissi era veramente il corrispettivo del trono di spade di oggi, non so come dire. Quindi quell'immensa popolarità e invece una timidezza, una voglia di scappare, di fuggire, che si ritrova in tutta la sua biografia. La signora di passaggio viene girato a Berlino, una clausola nell'accordo di produzione di cui Romy Schneider non è entusiasta. Per lei Berlino non è una città come le altre. Galan. Berlino rappresenta una vergogna per tutti. Una vergogna che ci portiamo dietro da 30 anni. Immaginate Parigi o qualsiasi altra città divisa in due. Ma per me Berlino è anche una città piena di ricordi. Il rapporto di amore e odio tra Romy Schneider e la Germania parte dalla sua infanzia e da sua madre, Magda. Dietro la loro apparente complicità c'è molta tensione. La madre di Romy Schneider era stata una delle grandi stelle del periodo nazista e Romy provava disgusto per il nazismo. Negli anni 30 e 40 Magda Schneider è stata l'eroina di numerose commedie romantiche. Dopo la guerra però la sua carriera si ferma. Non è così invece per la figlia, che proprio in quel momento muove i suoi primi passi. Ce ne parla ancora il biografo Michael Jürgs. Magda ha fatto di tutto per il successo di sua figlia. Nessuno voleva più dare a Magda Schneider una parte. Grazie a Romy, invece, ottenne nuovi ruoli in altri film. Madre e figlia gireranno 8 film insieme, tra cui la trilogia della principessa Sissi, dedicati all'imperatrice d'Austria Elisabetta. I film su Sissi sono prodotti tra il 1955 e il 57 e faranno di Romy Schneider una vera star. Ascoltiamo la costumista Ingrid Zore. Il popolo tedesco la adorava e lei era assolutamente splendida. Tutti avrebbero voluto una figlia come lei, era così dolce e graziosa, era la figlia ideale. E dovrai completamente cambiare la tua vita se vorrai diventare imperatrice d'Austria. Ma io non voglio affatto diventare imperatrice. Ma devi essere felice se puoi diventarlo. Sono sempre stata molto felice a casa mia, forse molto più felice di tutti voi qui. Io non ho alcuna intenzione di cambiare la mia vita. Io voglio essere libera, non voglio costrizioni. Piera de Tassis, a proposito della principessa Sissi, perché questo grande successo? Perché era il sogno di tutte le ragazzine, era il sogno di il sogno di essere principessa. Con chi giocano? Le ragazzine giocano, le bambine giocano con le principesse, giocavano soprattutto, però anche adesso. E la principessa è un mondo meraviglioso, femminile, bella, era una principessa poi a cavallo, quindi era tra la, non era neppure la principessa sottomessa alle regole, era una principessa ribelle che contrastava appunto le regole di corte, era immersa in questo mondo di castelli e magia, quindi è diventata così un simbolo, come era la versione coronata di Pippi Calzelunghe, insomma, anche un po' appunto metteva insieme la ribellione e il fatto di essere comunque una principessa, quindi il meglio che c'era in quell'epoca per le giovani ragazzine. Ma rispetto all'interpretazione di Romy Schneider, possiamo dire che era un po' la principessa Sissi l'alter ego, o meglio l'opposto poi di quello che Romy Schneider era nella vita? Beh, ma questo sì, però succede con tutti gli attori e con tutti i grandi personaggi. Non c'è mai, quasi mai, raramente c'è una sovrapposizione. No. Era proprio il contrario, se poi era così bella, anche tosta, soda e atletica la principessa Sissi, cosa che naturalmente era assolutamente inventato rispetto al personaggio storico probabilmente, però mentre Romy Schneider aveva appunto la tendenza a chiudersi, a ripiegarsi su se stessa. Ecco, no, glielo chiedo perché... Però poi è stata una ribelle a modo suo. Quindi. A modo suo, sì, ecco appunto, glielo chiedo perché poi a un certo punto lei se ne va dalla Germania, se ne va, ed è quasi un fuggire da quel personaggio. Cioè lei rifiuta il quarto episodio. Certo. È un fuggire da quel personaggio. Beh sì, per forza, si scappa sempre dai personaggi che ti rinchiudono in un cliché. È molto difficile essere la principessa Sissi dalla mattina alla sera alla notte, quindi a un certo punto bisogna smettere. Ed è quello che dice lei proprio, no? Cioè dice non posso più essere sempre all'altezza di questa principessa. È vero che i tedeschi non la presero bene? No, non la presero bene. La presero come lesa maestà, insomma, era proprio un tradimento. Poi vabbè, siamo anche in anni subito, quasi subito nel dopoguerra, no? Quindi insomma c'era ancora poi tutti i ricordi legati alla Germania, alla Francia in mezzo ai tedeschi, quindi ai nemici, cioè, insomma c'era un contesto anche storico che rendeva più accesi anche i sentimenti. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Il desiderio di qualcosa di nuovo la porta a fare un cambiamento radicale. Nel 1958 la Schneider si reca in Francia per girare L'amante pura, viene accolta come una star. Ed è sul set del film che conosce quello che diventerà il grande amore della sua vita, Alain Delon. Ad aspettarla in aeroporto con un fascio di rose in mano c'è l'attore francese. Lei è già una diva, lui ancora una promessa del cinema. Nei diari di Romy Schneider c'è un passo che descrive il suo arrivo a Parigi, organizzato nei dettagli dai suoi agenti. Ascoltiamolo. Sì. Era proprio lui ai piedi della scaletta. Un ragazzo troppo bello, troppo ben pettinato, vestito in modo inappuntabile, con una cravatta perfetta e un abito tagliato secondo gli ultimi dettami della moda. Sorrisi, flash, occhi sgranati. Ma a me, poco abituata a quelle parate pubblicitarie, sembrava tutta un'esagerazione, tutto artefatto, una finzione, come sul set di un film. Perfino le rose che Alain teneva in mano mi sembravano troppo rosse per essere vere. La sera poi ci trovammo al Lido. Ballammo a lungo per la gioia dei fotografi. Alain aveva imparato a dire in tedesco Ich liebe dich, ti amo, e continuò a ripetermi quelle tre paroline per tutta la sera. Ci fu anche il bacio, sempre per la gioia dei fotografi. Ma a me, che pure avevo sognato a lungo quell'incontro, continuava a sembrare tutto banale e artificioso. Il vero Alain lo avrei conosciuto qualche giorno dopo. Un matto, un ragazzo meraviglioso in jeans e camicia sportiva, sempre spettinato, capace solo di parlare a raffiche velocissime, un selvaggio perennemente in ritardo che girava per Parigi con un'auto sportiva, infischiandosene dei semafori rossi. Se in Germania viene criticata, in Francia la storia d'amore tra la stella tedesca e il divo francese è una vera e propria benedizione per la sua carriera. Ce ne parla il giornalista Jean-Pierre Lavoignat. Erano giovani, avevano talento e avevano successo. Erano la coppia del cinema. Erano la coppia reale del cinema. A Parigi, Romy Schneider debutta in teatro con Alain Delon sotto la regia di Luchino Visconti. Per lei è la scoperta di un mondo completamente nuovo. Il fatto di aver conosciuto Alain molto giovane e di passare dalla società austriaca a quella francese, che aveva una forte influenza culturale per una ragazza come lei, è stato come una rivelazione straordinaria. Tutto cambiò radicalmente per lei. Ebbe un effetto determinante. Amavo già Alain, ed anche lui mi amava. Ma le riprese del film finirono presto, ed arrivò il giorno della mia partenza. Felicissima mia madre, quel ragazzo dalla testa matta proprio non le andava. E io lo adoravo sempre di più. Feci l'intero viaggio piangendo. Piansi anche a casa, pensando solo a lui. E un bel giorno, scatenando le ire di mia madre, decisi di tornare a Parigi, da sola. Cominciò quel giorno la nostra nuova vita, in una vecchia mansarda nel cuore di Parigi. Eravamo tutti e due molto giovani e molto romantici. Un rapporto fatto di amore, di grande passione. E da parte mia, a darmi la carica, un'immensa gioia di vivere e amare. La straordinaria e travolgente sensazione di una libertà finalmente conquistata. Fiera dei Tassis, Romy Schneider va via dalla Germania, va a Parigi e incontra il grande amore della sua vita, Alain Delon. Lo abbiamo raccontato. Si incontrano sul set, lei lo accennava prima, i media quasi costruiscono a tavolino questo amore. Ma lo star system nel cinema incatena in questo senso gli attori o riescono poi a vivere i loro sentimenti? Bisogna ragionare in termini di epoche diverse, cioè è chiaro che... Cioè all'epoca com'era... Diciamo, negli anni degli studi hollywoodiani, anche tutte le storie d'amore, non dico che fossero costruite tutte a tavolino, molte erano di copertura, molte erano costruite giorno per giorno dai publicist dei vari studios. Io dagli anni 60 in poi credo che questo sia molto cambiato. In alcuni casi sicuramente si costruiscono storie a sfondo pubblicitario, ma è durato forse per gli anni 60 ancora un pochino, ma certo... Oggi è diverso? Oggi è completamente diverso. Si possono costruire, per carità, cioè ci sono momenti di pubblicità costruiti dai giornali, dai siti, però oggi, poi soprattutto oggi, nell'epoca dei social, nell'epoca di Periscope, eccetera, è difficile inventare molto perché viene spiato in ogni momento. Tutto quindi, più trasparente. Tutta questa meravigliosa costruzione che facevano... gli studi, i publicist, i press agent appunto americani, ma forse anche per un certo periodo quelli francesi, quelli europei, eccetera. Oggi, secondo me, oggi la vera grande cosa di una star è la sottrazione totale, perché è talmente esposta e siamo tutti talmente esposti che non è più possibile. Piera de Tassis, ma alla fine quello con Delon è un amore assoluto? Ma come faccio io a sapere? Domanda da un milione di dollari. No, ma non si può rispondere a questo, non lo sapremo mai, solo che appunto lui lasciò quel biglietto di cui tutti ricordano sul letto di morte di Romy Schneider. Io ci ho sempre creduto, ma insomma quando si amavano ero ragazzina anch'io, quindi per me c'era la principessa Sissi, c'erano questi due bellissimi assoluti, il culmine della bellezza, come dire Brad Pitt e Angelina Jolie di qualche anno fa all'epoca contemporanea, certo. Cioè l'incontro di due bellezze assolute, l'incontro di due attori di Visconti, quindi come dire anche l'incontro di un cinema molto alto, che non bisogna dimenticare che poi Romy Schneider uscì dalla sindrome Sissi entrando in ruoli grandiosi come quello di Ludwig per Luchino Visconti, poi aveva fatto La morte in diretta, grandissimo Simpsons, forse il suo migliore di Tavernier, ha lavorato per Chabrol, Orson Welles, eccetera, quindi Era l'incontro assoluto quello fra Lennelon e Romy Schneider, come potevamo non credere. Ma in questa storia lui non fa proprio una bella figura, cioè la lascia dicendo... No, non ha mai fatto una bella figura Lennelon in nessuna storia. Quindi è così, diciamo. No, è sempre stato... Si è parlato di tutto di Lennelon, la sua ambiguità, le cose, cioè ha sempre... Mi pare che con... Che ambiguità? Di che ambiguità? Perché? Insomma, le amori con Visconti, questo... tutti ne hanno parlato, eccetera, però io credo che loro incarnassero un vero e proprio sogno, una specie di coppia mitologica. E in quanto coppia mitologica per noi sono, come dire, rimangono qualche cosa di inarrivabile, e questa è la grandezza, ma anche la difficoltà. Come puoi essere all'altezza di quella cosa, di quel mito? Non ce la puoi fare, no? Nessuno ce la può fare. Infatti lei non ce l'ha fatta. Ma dopo 4 anni di amore travolgente, la relazione tra Alain Delon e Romy Schneider finisce. L'attrice lascia Parigi e torna in Germania. Quando ho saputo del tuo matrimonio, la prima cosa che ho pensato di fare è stata quella di chiudermi in convento. Ma a che cosa sarebbe servito rinunziare alla carriera e al mondo? Neppure da lì sarei riuscita a dimenticarti. Mi dici che l'hai fatto per il timore di rendermi la vita infelice. Ma è stato il tuo biglietto a rendere infelice e disperata la mia vita. No, mio carissimo Alain. 5 anni d'amore non si possono cancellare con un biglietto d'addio. Il tuo nome e il tuo volto resteranno per sempre incisi nel mio cuore. Nel luglio del 66 sposa l'attore e regista Harry Mayne. E dalla loro unione nasce l'amato figlio David. La carriera dell'attrice in un momento di stasi, quando da Parigi torna a farsi vivo Alain Delon, che non l'ha dimenticata. Lo racconta Michael Jurz, biografo di Romy Schneider. Romy stava cercando di vivere come una donna normale a Berlino, con suo figlio e tutto il resto. Un giorno, però, il telefono squilla. Lei alza la cornetta e sente una voce. Sono Delon, Alain Delon. Facciamo un film insieme? E zac, eccola di nuovo in Francia. È contenta di vedere di nuovo Alain Delon? Molto. Alain Delon, mi ha detto che anche lei è molto emozionato di vedere... Sì, è normale, non crede? Sì, certo. Anche lei è emozionato con quel microfono? Forse sì. Delon e la Schneider si ritrovano di nuovo insieme, ma per lavoro e sul set. Questa volta si gira La piscina, storia di passione e gelosia nella cornice di Saint-Tropez. Aspetta, vado io. Resta qui, lascialo suonare. Ma perché, scusa? Torno subito, no? No, non andare. Invece sì. No! No! Ma lasciami! Indovina chi è? Me ne infischio. Era Harry. Si trova qui? Sì. In qualunque posto andiamo, il primo che ci telefona è sempre lui. Erano 2 ex amanti. Tra loro si percepiva quella tensione particolarissima. Ma fu per il rispetto della sua bellezza e della sua personalità, e soprattutto per il suo amore per lei, che Delon la richiamò dalla Germania. Uscito nel gennaio del 69 La piscina dà nuovo impulso alla carriera dell'attrice, che gira film come La Califfa di Alberto Bevilacqua, Ludwig di Luchino Visconti, La morte in diretta di Bertrand Tavernier. Il contrasto tra la sua bellezza luminosa e la sua natura drammatica fanno di Romy Schneider una stella del cinema francese. Dopo La piscina, Romy sbocciò come un fiore, come una rosa che si apre. La particolarità di questa attrice, il suo accento tedesco, il suo modo di camminare, come un soldato un po' rigido, era così meravigliosa e rassicurante da vedere. Era molto espressiva, riusciva a far piangere le persone, le faceva emozionare. Era la voce dell'attrice Jean Birkin. E da stella del cinema francese, Romy Schneider, dopo molti anni, torna a Berlino per girare La signora di passaggio, il suo ultimo film. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Due matrimoni finiti male, la morte del figlio, la depressione. Romy Schneider nell'ottobre dell'81 è a Berlino per girare un nuovo film, La signora di passaggio. Un giorno, mentre stavamo girando un film, Romy non si è presentata sul set. L'ho chiamata e non ha risposto, così le ho lasciato un messaggio. Poi mi ha richiamato e mi ha detto: quello che sto per dirti non ti piacerà e hai tutto il diritto di arrabbiarti. Hai ragione, avete tutti ragione. Non sono venuta perché l'altra notte ho guardato i giornalieri e mi sono vista così brutta che oggi non me la sentivo di essere ripresa. Dopo le numerose interruzioni, le riprese del film vengono concluse. E rassicurata dal successo della pellicola che esce nelle sale nell'82, la Schneider accetta un nuovo progetto. È un lavoro speciale che dovrebbe portarla a lavorare ancora una volta con Alain Delon. L'un contre l'autre con Alain Delon è un progetto meraviglioso. La riunione di una coppia fantastica. Assolutamente formidabile. L'un contre l'autre alimenta grandi aspettative. Nel cast c'è anche l'attrice Simone Signoret, scelta per il ruolo della madre di Romy Schneider. Ma il progetto viene rimandato di una settimana e poi di un'altra. Romy Schneider si concentra allora sulla sua vita privata. Sara, sua figlia, sta per compiere 4 anni e nella sua vita c'è un altro uomo, Laurent Petain. È un giovane assistente conosciuto in Italia sul set di Fantasma d'amore di Dino Risi. Il produttore Ariel Zeitung incontra l'attrice in questo periodo. Stavo partendo da Roma e l'ho incontrata in aeroporto per caso. Era radiosa, era davvero raggiante, mi è sembrata diversa da quella donna nervosa e preoccupata che avevo conosciuto. Questa volta era in splendida forma. A un certo punto mi ha detto: sono innamorata. Ed era vero, si percepiva la sua felicità. Nella primavera dell'82, la coppia decide di comprare una casa in campagna a Boissy-Saint-Savoir, a circa 60 chilometri da Parigi, in mezzo ai campi di grano. Per Romy Schneider è un modo per fuggire. Ma Romy Schneider nella sua casa in campagna non si trasferirà mai. In attesa che finiscano i lavori, vive a Parigi, in Rue Barbet de Joie, in un appartamento che le ha prestato un amico produttore, e nonostante l'amore del nuovo compagno, cade di nuovo nella depressione che l'ha tormentata per mesi. Ovviamente sapeva di avere un problema con l'alcol. Dopo l'operazione a Rennes, le era stato proibito di bere vino rosso. Ma lei aveva continuato. Pillole per dormire la notte e stimolanti per iniziare la giornata. Romy Schneider è caduta in una spirale infernale, senza uscita. La sera del 28 maggio, Romy Schneider e il suo compagno tornano a casa verso mezzanotte, dopo una cena con amici. Laurent Petain va a letto, mentre la Schneider si siede al tavolino che usa come scrivania e inizia a scrivere un biglietto per un giornalista. La mattina seguente, Petain ritrova il suo corpo senza vita. Chiama subito la polizia e Laurent Devenat, capo dell'ottava divisione criminale della polizia di Parigi, è il primo sulla scena. Devenat chiede a Laurent Petain che cosa è successo. Petain era andato a letto senza Romy Schneider. Si era svegliato nel cuore della notte e lei non era a letto. Allora si era alzato e l'aveva trovata accasciata sul divano. Non riusciva a svegliarla, così la prese in braccio e la mattina scoprì che era morta, che non era più viva. Laurent Devenat chiama il dottor Leponge per il referto ufficiale. Abbiamo scartato l'ipotesi della violenza. Ci chiedevamo però, si è trattato di suicidio o di una morte accidentale collegata all'abuso di alcol e farmaci per dormire? Abbiamo optato per questa seconda ipotesi e per questo motivo ho deciso di non richiedere un'autopsia. Per me non c'era bisogno di mandare Sissi all'istituto medico legale. Io volevo che continuasse a vivere nell'immaginazione del pubblico, così come il pubblico se la ricordava. Pira De Tassis, ma alla fine secondo lei si è suicidata? Si è lasciata morire. Io penso che si sia lasciata morire. E del resto stava molto male. Del resto, insomma, è difficile anche sopravvivere a un figlio morto in quel modo tragico, a un marito che si suicida, I segnali c'erano tutti. Se non si è suicidata, si è sicuramente avvicinata velocemente alla morte. Dopo la morte di Romy Schneider, il grande amore della sua vita, Alain Delon, avvisato della notizia durante un viaggio, si precipita in città. Arriva nella sua casa e per la prima volta le scrive una lettera. Ti guardo mentre dormi. Sono accanto a te. Sono al tuo letto di morte. Ti dico addio, il più lungo di tutti gli addii, bambolina mia. Abbiamo vissuto insieme più di 5 anni. Tu con me, io con te, insieme. Poi la vita, quella nostra vita che in fondo non interessava a nessuno, ci ha separati. Ti guardo mentre dormi. Non sarò presente né in chiesa né alla tomba. Ti prego di perdonarmi. Tu sai che io non avrei potuto in nessun modo proteggerti da questa gente avida, da questa massa di libidinosi, da questo spettacolo di cui hai sempre avuto paura. Perdonami. Verrò il giorno successivo e staremo da soli. Bambolina, continuo a guardarti ancora. Con i miei sguardi voglio inghiottirti e dirti ancora che non sei mai stata così bella e così tranquilla. Riposa in pace. Io ci sono. Da te ho imparato un po' di tedesco. Le parole Ich liebe dich. Ti amo, bambolina mia. Alain. Nel 1965 Hans-Jürgen Sieberberg firma un ritratto a tutto tondo della diva. La macchina da presa la segue per 3 giorni, dalle prime ore del mattino fino a notte fonda, e ne nasce un racconto intimo di una diva dalla vita privata tormentata e critica nei confronti dello star system. Die Macht, und das gilt hauptsächlich für Amerika, für Hollywood, die ein Schauspieler hat. Die Macht. Il potere. Il potere. Gli attori ne hanno molto, soprattutto ad Hollywood. Il potere. Pensiamo a Brando o a Sinatra, questi sono esempi fra i tanti. Penso anche alla Lauren o a Elizabeth Taylor. Grandi autori come Tennessee Williams scrivono sceneggiature su misura per loro. È tutto facile se ti trovi nella loro posizione. Ma io dove mi colloco? Non mi dispiace non essere come loro. Non voglio avere il loro potere. Non mi interessa lo star system. A un certo punto ho dovuto fare una scelta. Per essere una star e apparire ovunque, devi accettare tutto. Preminger mi ha detto che ne avevo la stoffa. Se volevo fare carriera e girare film, per lui avrei dovuto girare tutto quello che capitava. Dovevo girare qualsiasi cosa, tranne le vere porcherie. L'ho ascoltato con attenzione. Aveva perfettamente ragione. Aveva ragione al 100%. Ci ho provato, ma non potevo. So che se avessi accettato di girare almeno 5 o 6 film accanto ad attori che sbancavano al botteghino in tutto il mondo, ora sarei da un'altra parte. Avrei potuto avere una vita più facile. Ne avevo la possibilità. Forse l'ho persa. Forse l'ho rovinata con le mie stesse mani. Piera de Tassis, cioè questa cosa dell'antidiva nella Schneider, che cosa voleva dire secondo lei? Secondo me lei rappresenta proprio quello che è il culmine di passaggio. È un'attrice europea in un momento di passaggio da un cinema che era quello appunto che prevedeva la diva, la divinità, eccetera, la grande popolarità, gli studi alle spalle e quindi anche la condanna di essere diva, ha un momento di cinema che è liberato, in quel cinema si libera, esce dagli studi, gli attori non sono più semplicemente star, gli attori rappresentano la rabbia, cioè la ribellione e tutto quanto, le nouvelle vague. Ecco, Romy Schneider capita in mezzo a questo periodo di passaggio. Piera de Tassis, che ne pensa del verdetto di Cannes? Beh, penso che noi sicuramente meritavamo di più come cinema italiano, l'ho detto e l'ho ripetuto, non è assolutamente nazionalismo, non l'ho mai fatto, però questa volta ci siamo presentati con 3 film eccellenti, con 3 eccellenze italiane, Sorrentino, Nanni Moretti, Matteo Garrone, con un cinema nuovo, variegato, veramente internazionale. Abbiamo tenuto banco per 10 giorni, ne hanno scritto tutti, abbiamo venduto benissimo sul mercato internazionale, quindi in realtà abbiamo già vinto. Diciamo, e allora perché no? Perché le giurie sono così, perché non c'era un giurato italiano nelle giurie e perché secondo me il sistema di promozione del nostro cinema a livello internazionale è ancora molto fragile. Piera di Tassis, lei è presidente del Festival del Cinema di Roma. Che festival sarà quello di ottobre? Beh, sarà. Io sono presidente della Fondazione Cinema per Roma, che produce il Festival di Roma, anche la festa che si torna a chiamarsi festa. Non avrà i premi, ma avrà un solo premio, che è il premio del pubblico, votato dalla fine di ciascuna proiezione. Mescolerà cinema, fiction, documentari, animazione e soprattutto avrà il suo focus negli incontri tra i grandi protagonisti e il pubblico di Roma. E naturalmente è guidata e diretta da Antonio Monda e sarà lui poi a raccontare i film, i contenuti nello specifico. Finora grande caccia sulla crosetta e dentro il mercato a tutti i titoli possibili e disponibili. Grazie.